passato tanto di quel tempo. E proprio da qui, da sta stessa terrazza, cominciò pure la storia mia. A quella festa tutti ballavano, magnavano, ridevano, eppure il monsignore si divertiva. Ma no Rivarola, No. Il padrone mio era il cardinal Caracciolo, che si non era boia come a quell'altro, e perché Rivarola stava ancora nei piani arti del Vaticano, mentre il cardinal Caracciolo tramava nell'ombra. Comunque, insomma, quasi era se stava a divertir puro lui. Fino a che non successe il fatto di quel giovane musicista morto lì, come si chiama? Pacini, mi pare, manco me lo ricordo più. Però mi ricordo la faccia del cardinale che divenne bianca come il lenzuolo, d'ambriaco come una zucchina com'era. E mi fa, dice, prepara la carrozza, Nino, chiamicenna a casa. Siccome io stavo al servizio suo, gli fo, pronti. Io me volevo fare affari propria, solo che poi gnedi ancoccià proprio contro l'occhi del conte Rico, e allora... Sì, lo so, ma hai sempre detto. Affassela affari propri, se campa 100 anni, e allora mo che t'è successo? Che è stato mai che t'ha fregato? Oh, sguarda, ma... che è stato quello. Con qua la faccia, poi, lui te ci ingannava con quel sorriso. Dice, ma non potevi stare attento pure tu, non potevi aprire gli occhi? Sì, te pare facile. Già la vita è complicata. E poi proprio quell'occhi me confonnevano. Quel modo che c'aveva di guardare, de fa, de pensà. Sì, è vera, ma lo so, l'hai sempre detto. Affassela affari propri, se campa 100 anni. Ma mo io ti chiedo, ma, dimmi un po', l'affari propri, quali so? Insomma, qua sera che tornavamo dal ballo a Palazzo Torlonia, mi stava a scarozzare a sua eminenza, Monsignor Caracciolo, fino al portone del palazzo suo. Ah, vai Bruto! Ah, ah! Quando quello tutto storto, embriaco com'era, comincia a bofonchiare, rotolasse sul seggiolino e mi fa, dice, oh Nino, e come stai portando sta carrozza? Ah, scusi, Eminè. Bruto, lì, al passo! No, è che siccome che ha piovuto che poco, a Roma de notte su ste strade ci vorrebbe la mappa delle buche per stare tranquilli. Per fortuna che gli è Bruto se capiamo al volo. Ma dimmi tu, se a Roma, caput mondi, un povero vecchio come a me per tornare a casa soi sa da rompere il cuore. Sì, è vero, ma se sua santità, che Dio l'abbia in gloria, anzi decide a fare strade nuove, va a finire che una serata questa ci casca pure lui dentro una buca. Babboni no, cerchiamo di arrivare a casa sani e salvi, eh? Almeno per questa sera, che tanti guai peggiori debbano ancora arrivare. Quali guai, Eminè? Ecco, se tu adesso rallenti... Fermate, Nino, che mi sento male! Ah, Bruto, lì! Dica, Eminè. Mio nipote arriva fra qualche giorno da Milano. Ah, da Milano mi fa piacere. Azzo, ti fa piacere, io ci passato un guai. E perché? Dunque, Nino, qua mi serve la collaborazione tua. Quello viene a stare qui da noi perché a Milano voglio incarcerà. E mia sorella mi ha pregata. Tiene delle con te fino a che cambiarono poco, capito, mo? E perché voglio incarcerà? E che ne sai, pare che con 4 amici abbiamo pubblicato una foglia dove ci stavano scritti nazionalisti, giacobini, repubblicani, tutta cosa. Insomma, si viene a passare una vacanzetta qua da me. Va bene. Ma voi perché avete accettato questa ospitalità? E che potevo dire di no a mia sorella? Comunque, quella deve stare qui solo un mesetto. Allora tu devi stare a servizio suo, così lo controlli buono e meglio. E quando buono e buono si sarà ambientata con il resto della città, arrivederci e grazie. Ho capito, ma non sarà pericoloso. Dunque, Nino, qui a Roma, dal Papa, Papalini o Giacobini, i nobili, su sempre nobili, e quindi figli di Maria, a meno che non si occupino di politica. Ma so spiegate, mo? Insomma, com'è, come non è? Fra una buca e l'altra arrivomi a palazzo, andò mi madre, Sor Giustina e il Cavallaro, aprorno il portone a sua eminenza e lo fecero rotolare direttamente sopra il letto a Pardacchino. Poggia lì, Bruto, lì. Pax et bonum, gli sussurrava mia madre mentre quello si indormiva. A buona pace sua e nostra, che noi senza sua eminenza non sapevamo manco un donna a magnà, che quelli erano tempi duri, che dopo la paura di Napoleone Bonaparte erano tornati i tempi antichi. Insomma, senza far tanti giri di parole. Stavano bene solo i preti e i nobili parenti, mentre il popolo a cattone e poraccio dagli allunga il collo per vedere i quadrini. Te può figurare la preoccupazione nel sapere che arrivava un conte ragazzino, giacobino, e che la testa calla a girà per palazzo. Ma a me mi sa che mi tocca, nisconde l'argenteria, faceva mia madre. Ma no, ma che stai a dire? E quello mica un ladro, non te scordà che è nobile. Ma dimmi te, sì che minchioneria, de mettersi a tavola uno che per ditte grazie se mangerebbe i preti e ci manderebbe a noi per stracci. Ma no, mamma mia, su, e che sarà mai sto ragazzetto? È solo uno che vi ha far signorino, a respirare un po' del ponentino, a giocare a carte. Ci ha detto pure il monsignore zio. Inglese, crucco o francese, il pellegrino è come il vino de Frascati. Come vi è? Se ne va. Questa la sta qui solo un mesetto, poi rispedimi a casa. Sì, Nino, ma tu stai appresso, hai capito? Perché il sor caracciolo è vecchio, embriaco. Siamo noi che se dovemmo cacciare l'occhio di fora si volemmo evitare i guai. Sì, sì, ma... Oh. Il monsignore è stato chiaro, stai appresso, e io sto. Vorrà dire che se suo signorino va a corte, me una volta nella vita ci andrò pure io. Sì, Nino, ma sta tentando mettere i piedi, ha capito? Sì, no, te veniva a ricoglie sul ponte, come al barbone del castello. No, no, ma, oh, che stai a dire? Ce lo sanno tutti che quello è matto. Poraccia, mi madre, oh. Con la fregola nel cuore faceva a gara col sor Giustino e il cavallaro a nascondere i brillocchi, manco dovessimo ricevere uno zingaro brigante, oh. Insomma, com'è, come non è? Qualche giorno appresso. Bam, bam, bam! Bussano al portone. Ecco, momento, un po' di pazienza. Arrivio. E lei chi siete? Conte Ubaldi Caracciolo, ma il mio nome solo è Enrico, per servirla. Sarà stato pure uno zingaro brigante, ma a me mi pare che c'aveva un'aria spaurita, candida, che mi pareva un martire cristiano. L'occhi spiritati non gli mancavano e davano la fregola a tutto il resto. Arto, magro, moro, sempre con sto sorriso sulle labbra e sto cappello nero in testa, che se levò solo quando vide monsignore zio per baciare gli anello e quando incocciò mia madre che ci rimase come una fava secca, pora donna. Guardelo. Guardelo, Anino, come assomiglia a tuo fratello Ottavio, c'ha lo stesso sguardo suo sputato. Stai appresso, Nino, sinno so guai. Ma sarà stato pure sputato, ma secondo me a mio fratello non ci assomigliava per niente. No, mio fratello era diverso. Lui c'aveva lo sguardo focoso, tosto, che ne abbassava mai, manco in famiglia. Una famiglia di buona gente, che campava del suo senza mai alzare capoccia, mai nessuno. Tranne Ottavio! No, lui era diverso. Lui c'aveva i grilli per la testa, o perlomeno qualcuno gli doveva efficcati. Perché se prima guardava il mondo con l'occhio del curato, mo si era imparato a guardarlo con l'occhio di se stesso. E fu per questo che pia il cappello e va a far fere e fuoco con i francesi nella grande armata de Napoleone Bonaparte. Poraccio, Anna morì di fame dopo essere ferito in battaglia a mezzo artifo pedecchiale per i signori dell'89 e dell'uguaglianza. De lui, non ci rimase più manco il cappello. È chiaro che l'aria del mondo nuovo in famiglia, ma da mo che l'avamo chiusa fuori del portone. Insomma, io era già un po' che mi smicciavo il tipo. Quando corgo un momento buono per avvicinarmi al sol continuo, gli dico: Sor Eccellenza, Sorerì, permette un consiglio? Ecco, noi qui a palazzo siamo tutti brava gente e il monsignore ci vuole bene e lei, se non l'avete ancora capito, siete ospite gradito. Però ecco, Sor Eccellenza Sorerì, una preghiera. Attento a chi incoccia. Perché se dentro a questo palazzo voi siete il padrone, fuori, pei vicoli di Roma, se serva di netto suo, così, per evitare fastidio de cascà in qualche lama de cortello, lei m'intenne. Quello mi guarda diretto dopo che ho finita la lezione. Si tira su il cappello e mi risponde sorridendo. Va bene, Ninetto. Vorrà dire che da oggi mi farai da accompagnatore. Con te voglio girare Roma in lungo e in largo. Voglio svelarne i segreti, le piazze, le dame immacolate. Oh, che t'ho da dire? Questo già me stava sui coglioni. Ma il monsignore era stato chiaro, stagli addosso. E fu così che giorno appresso Via giù, vai Brudo, via giù Pelurioni e li vigoli de Trevi, de Pigna, de Arghetto, e poi li fori, er Coliseo, e poi Borgopio, er Cumolone, infine a Trastevere, e questo non si staccava mai, eh. Anzi, più siti visitava, più esortiva fuori a Fregola, e dai e giù a scrive versi e prose su chiese, piazze, fontanoni. Non te dico poi quella volta che ne so che incucciavamo una processione. Come qua a domenica che il Santo Padre s'affacciò alla finestra e poi niede giù strada per benedire i pellegrini. Noi stavamo girovagando a zigo zago per le baracche del borgo. Tanta fu l'apparizione quando sortimio nella piana de San Pietro che l'occhi del conte divennero du mele fulminate. Madonna, e quanta roba appressa al papao! Stava dentro una carrozza tutta d'oro, corcodazzo suo degli dragoni, gli gendarmi, la guardia nobile, il popolo per strada col cappello in mano, il cenneraccio in testa, giù a fa genuflessioni e picchiapetti e segni de croce e a strippasse il gargarozza urla «Viva Pio VII! Viva il Santo Padre! Viva il Papa Re!» Una roba, te dico io, che Dio in persona quello che lo dovesse aprire, cadrate nel cielo e scende direttamente in terra per stringere la mano e baciare l'anello per devozione. Avvistacele, a sto popolo ne servono gli imperatori. Gliene basta uno solo, ma per l'eternità, difatti, il conte fa spallucce e se ne va. E io comunque sempre appresso a lui. Sempre appresso a lui. A far piacione di fronte a ogni palazzo nobiliare, a far ritratto alle signore che sortivano, che rientravano, e qualche volta ci scioglievano pure i cani. Te dico poi che ne so, qua volta ci volevamo bere una foglietta con un po' di pecorino. Quello dai a far ritratto pure all'oste che ci portava il vino, che mi guardava con l'aria stranita come de uno che dice che fa, ma mo sto fanello che vo, che mo venne. Non ho a sul capo, né niente, egli è forestiere, ma ci si può fidare. Forestiere, dando. Di Milano, per servirla. E ndo sta? In Italia. E ndo sta? L'Italia è questa. Noi siamo italiani. Lei è un mio compatriota. Ma che mi stai a coglionare? Oh, no, sor capo, né niente. Ecco, questi sono i bagliocchi del vino che abbiamo bevuto e buona nottata. Poche volte mi fa il vento per vita li guai. Così che gli fo dico, ah, sor eccellenza, sorri, che stiamo a fa? Voi siete un ragazzetto tosto, intelligente, che ne capite le situazioni? Oh, e qui mica stiamo a giocare, Perché finché si tratta di scrivere, voi lì siete il padrone che io non sono manco capace. Ma quando si tratta di parlare con gli ignoranti, e beh, se permettete, lì è il padrone, so io, E questo sempre con sto sorriso sotto al cappello? Va bene. Va bene, Ninetto. Vorrà dire che da oggi mi farai da consigliere. Con te voglio parlare liberamente. Voglio aprire il mio pensiero all'amore per questo popolo semplice e antico. Accetti questo invito? Vuoi essere solo un servo o anche un amico? Questo non mi stava solo a rompere i coglioni. Era pure scemo. Ma era il nipote de sua eminenza e a me mi toccava scarozzarlo. Così mentre che lo scarozzavo gli evitavo li guai. Quello dai a fare i nomi dell'amichi sua. Certo Silvio Bellico, Fosche Lomborsieri, Breme. Vatta a ricordare tutti i nomi dei grandi cose che facevano, che pensavano, tutti impacchiati e bravi a parlare con la panza piena, Con quel cappello poi. Con quel cappello pareva che ci fosse andato a nozze. Manco fosse stato quello del fu imperatore, che poi, senza dirlo troppo in giro, se sapeva che veniva dritto dritto da un soldato che era ido a tirar fiato nell'ultima guerra del grande capo e passa de mano in mano s'agnete a posà proprio sulla capoccia de questo ragazzetto. Viene da Waterloo. E toccamose li coglioni! Poraccio, zor Contino, non era ida capitavo. Bastava sta pressa a sua eminenza per capire in che ambientino si muoveva. E che via vai che si faceva dietro al cardinale, quando dentro a qualche palazzo de principe o marchese, si era mezzanotte a fine cena e quello era già ambriaco, tirava fuori il mazzo de carte e voleva giocare a mino dentro a qualche salotto buono. A me mi toccava sempre aspettarlo in anticamera. E a un segnale convenuto, una frase dall'interno de sua eminenza tipo «Dura lec! Se io dovevo bussare alla porta per chiedere udienza E poi con la mano smersa gli allungavo la carta giusta per far filotto. Mo però, da quando il sorcontino era a Roma, sua eminenza n'era più la stessa, era tutta preoccupata. Tanto che per digeria storta spesso alzava il gomito pure lui e quasi era arrivò al tavolo da gioco cotto come una mela cotogna. Così che mentre il sorcontino ballava con la marchesina e io non vedevo l'ora di risalire sulla carrozza e chi si è visto, finalmente sua eminenza sbotta. Dura l'ex, se dell'ex. Io bussa la porta, reverente, pronto. Eccellenze, permettono. E la scena che mi separò davanti non era degna della nobiltà papale. Quattro barucconi embriaghi e il monsignore indormito mentre che l'artitrice scambiava le carte giuste, sua eminenza la faccia a pennolone che russava come un bove. Eccellenze, permettono. La mano del marchese Augusto si ritrae lesta al posto suo. O giovinotto, o cosa volete, vero? Lasciateci giocare, grazia plena. No, è che sua eminenza voleva sapere quando è che dovevamo preparare la carrozza, vero eminenza? Ah? Chi è? Chi mi ha chiamato? No, giovinotto, via, fate il bravo, via, andate via di così, fate il bravo, su via. Ah, Nino, sì tu. E che buono. No, niente, eminenza, è che pure il sorcontino si chiedeva quando è che dovevamo preparare la carrozza. E gli allungo l'asso che gli serviva. Ah, il condino. E se rindorme. La mano del marchese Augusto se ne approfitta per arrivare all'esta sulla posta in ballo al tavolo da gioco. Ma io lo blocco guardandolo fisso. Che volete il caffè? Eminenza, lo volete il caffè? Eh? Lo volete il caffè? La mano del marchese Augusto si ritrae un'altra volta al posto suo. Ora basta! Eminenza, oh via, con questo vostro cocchiere qui è ben così invadente, via! Per tutta risposta, il cardinale comincia a parlare nel sonno. Papà, e voi mi dovete capire a me, papà, il mondo è pieno di cose, papà. Parlava, dormiva, forse sognava, boh. Papà, io mi sento che vivo come dietro a un vetro, ma al di là di quel vetro ci sta il mondo dove la gente soffre, ride, si diverte, insomma campa per davvero, e io che faccio? Ma guarda, no, papà, io le devo infrangere quel vetro. Io voglio fare come Enrico che tiene l'anima leggera. Io voglio viaggiare, vedere il mondo come fa lui. Io voglio fare il missionario, voglio fare il soldato. Che me ne fotta a me della carriera. E invece mi ci sono invecchiato dietro a quella finestra a guardare chi passava libero, chi sognava libero. Nina Bello, che pietà. E il silenzio s'era fatto nel salotto Bono quando se compì il miracolo di vedere il potere della chiesa che piagneva in angolo come l'ultimo di sagrestani, mentre gli altri tre parrucconi come le matrone all'ora del vespro, quelle che con una mano pregano il rosario e con quell'altra se contano i sordi in mezzo ai zinne. Difatti come queste fece il marchese quando provò a riallungare la mano sulla posta in ballo al tavolo da gioco. Staccate! Lo schiaffo gli arrivò lesto da sua eminenza, che la mano del marchese divenne rossa come un peperone. E mo basta! Il cardinale s'era svegliato, non c'erano più cazzi da spartire. Nino, tu aspettami qua fuori, che io finisco la partita qua con i miei amici illustrissimi. Ma mo, si gioca secondo le regole, ma già spiegà. Io sortii fuori con un inchino e lasciai sua eminenza in mezzo all'altri tre parrucconi, sveglio, lesto, e con l'asso de picche ormai stretto na mano. Quando, fra il lusco e il brusco del corridoio, me vedo ven incontro un vecchio de 100 anni, tutto un baguccato come in generale di zuavi, pieno de medaglie che gli cascavano dal partò, infino sopra al bastone che lo sorreggeva. Figlio bello, sei tornato puro stavolta. Maghi, io? Figlio, non dovevi ritornare da tuo padre che mi fai venire su e rimorso. Poi la governante che sta con lui mi fa pure cenno di star gioco. Lo perdoni, sa? Lo perdoni. Il generale è il padre del marchese e vede il figlio in tutti quanti. È molto anziano, sa? E se tocca con l'indice la fronte. Io mo guardo bene, ma mi pareva proprio come a nonno Checco che viveva in mezzo a gatti, poro vecchio. Difatti mi piava la mano come faceva lui. Figlio, figlio sconsolato e matto. Figlio, tu madre t'ha chiamato libero, non dovevi ritornare. Vieni con me, figlio, prima che riparti. E dove mi portate? Papà. Qui de fuori, a piampo d'aria come facevi quando che eri ragazzetto. Io t'ho sempre voluto bene, sai figlio, t'ho sempre voluto bene a te più che a tutti gli altri stronzi che ci stanno qui. Fermo, papà, e se fai così non è più nessuno. Io ho sempre combattuto per grazia de sua santità, capito? Non mi sono mai tirato indietro dai barbari, ai lanzichenecchi, all'arabi, a quell'altri dei lute, degli lager, dei brussi, come cadeli. Meglio mortacci loro! Sempre a baccaia per grazia de sua santità. Tanto che mi ci sono pure invecchiato a sto modo. Mi sono pure dimenticato di te. Ma no, papà, pure? Ma non è successo niente, non vi preoccupate. Ecco, via qua, figlio. Eccolo. Questo è il terrazzo da dove ti divertivi sempre a guardare giù e il Tevere. Poi il vecchio si incanta a guardare giù. Una barca che parte dal molo illuminato. E la puzza del fiume ci viene su. Su fino al naso dei noantri. Il tempo passa, sai, figlio. E quando sei giovane te rincora perché è pieno dei progetti. E a chi parte in battaglia benedice, ma a chi resta non gli dà pace. E da vecchio te fa sentir solo la puzza del passato. E mo chi è quell'altro fanello? Quale? È quello che sta affacciato lì in finestra. Ma come quello è il Conterico, non stava a ballare con la marchesina, si è messo a guardare il fiume pure lui. Guardalo, guardalo, come se vede che c'ha l'animo leggero come c'hai tu. Se vede lontano un miglio che sta aspettar momento buono per volar via come una fronna quando che sa il servento. Libero! Libero! Libero! E venne il giorno de carnovale. Giù per via del corso c'era un parapia di gente, non se ne va manca fino a botti, strucci, sonagli, puzza de piscio, a gente impazzita peggio che dal papa. Spartaco! Che fai? Te devo di una cosa! Che vuoi? Becche di questa! Ah, Sor Conti, e qui si volevamo salvare la pelle e dovevamo passare muro muro, che famo? Andiamo? Ma è una festa straordinaria! No, è una manica di fina mignotta, Conte, eppure voi vi siete vestito a Giacobino, che Dio abbia in gloria. Quindi state mazzeccate al collo e non date confidenza a nessuno, mi raccomando. Ci passa accanto un caretto pieno zeppo di monachelle, che a guardarle meglio ci avevano tutte le braccia pelose e i baffoni da musulmano. Quando che hanno benedetto tutto il circondario, de botto, s'alzano la gonna e tirano fuori un uccello. Tutti a ride, chi ride, chi se mangia le pannocchie, chi beve il vino. A Sor Conti, e qui si voleva arrivare a Palazzo Serrubi, dobbiamo passare a Parodonna, voleva andare, sì o no? Ci passa davanti una biondina boccolosa sotto braccio con una vecchia tutta imparruccata. Quando la bella pupa passa davanti al Conterico, gli molla un sorriso e poi spariscono dentro al Nicoletto. Il Conterico sa, guardate molto interessato. Carina, vero? De fora parebbe di sì, ma bisogna pure vedere come sta messa di sotto, a vista le monachelle. Se scordiamo che a carnevale ogni scherzo vale, ha capito, eccellenza. E mondei, dao. Ah! Un urlo scoppia dentro una bettola. Poi una decina di persone sortono da fuori, via e scappano da tutte le parti. Oddio, il conte! Dall'osteria esce uno alto, lungo, tutto elegante, uno roscio che chiamano l'inglese. Se butta per terra, rantolà, con le mani sul panciotto rosso di sangue. Oh my God! Oh my God! Ma non se lo fila nessuno. Anzi, dietro a lui c'è sta un nano tutto fiero con coltello in mano. Godi! Godi questo coltello in panza brutto fracia, così te impari anche la buona gente. Pia butta il coltello per terra e se ne va. O Zingarello ricoglie al volo e se ne va pure lui. Marconte, ndo sta? In mezzo a gente smiccio pure la vecchia, che ha guardato tutta la scena. Acchiappa o Zingarello e vanno dietro a un palazzo. Io gli ho appresso. Ma c'è sbarra la strada, biondina boccolosa, che sta a contare i quattrini. E de chi sono i quattrini? Del sor Contino. Che te lo vedo tutto spiaccicato al muro, con un gobbo travestito da boia che gli tiene il coltello puntato dritto dritto in gola. Aum. Aum. Fa la vecchia alla biondina. Adullio! Ma che stai a condare i quattrini per strada? Ma che te sei ringoglionito? Ama! Fa la biondina. Amà! Questi sono solo due baiocchi, sto strunze restano bocca c'è fuori. Interviene pure il ragazzetto. Ah, papà, papà, ma questo lo spanzo io, questo? Ma questo lo spanzo io, questo? No, tu non spanzi niente, perché se questo c'ha altri rubrilocchi, i caccia fuori, vero ce l'è? Intanto il gobbo travestito da boia sta lì da in faccia al sol continuo. Oh, lo sai che si ti ha composto questi lottari trovi addosso? La polizia ci dà un bel premio, ci dà. Ci dà 1000 scudi, ci dà. Oh, ci dà 1000 scudi. Che facilità te, signori? Eh? Che facilità? Mamma mia, i 5 minuti non capisco più niente. A morte in vacanza! Chi sei? Che vuoi? Voglio sapere chi è che va manna in giro a voi. E a te che te frega? Gli frega testa de cane. Testa de cane? È il padrone del quartiere qui, e lui non vuole che va in giro certa monnezza. Che faccio? Do da chiamare. Amoro, guarda che si ci stai a coglionà. A boia hai rotto il cazzo. Adulio, allora è meglio stanna, ma tanto abbiamo fatto tutto, che ci frega. Vabbè, vabbè. Noi se ne andiamo da un'altra parte, però sto ragazzetto viene con noi. No, sto ragazzetto rimane qui. Testa di cane invitato a pranzo. Vabbè, oh. Allora buon appetito, che t'ho da di. Oh, li sordi. Ah, papà, papà, ma che fai? Gli dai pure quelli, gli dai? Gli dai pure quelli, gli dai? State zitto della buona volta, no? Ma guardati, se quando uno va a faticarsi può stacchiare sta zona è mia, sta zona è tua. Che va? A ripetere questi due bagliocchi, tanto io non ci faccio niente. Ma te voglio più vedere in giro, capito? Si nota a coppa, te a testa dei cani. E mo rimettemi la parrucca e andiamo a faticare. Bravo, Adulio! Non decidevi a mischiare con certa gente! Quelli sono tutti morti de fame. Che dici, Nino? Nino? Se ne sono andati? E che ne so io? Speriamo di sì. Ma tu lo conosci davvero, questo testa di cane? No, non ho mai incontrato. Però conosco un testa de cazzo. Sì, scusa, Nino, è vero, hai ragione tu, io non credevo che... Ma davvero non lo conosci, questo testa di cane? T'ho detto di no, non è manco di Roma. Ma allora è meglio che famo presto prima che la buona famiglia lì si accorga di quanto sono stato coglione, aiuta a voi e tutta la razzaccia vostra. Guarda, guarda, i fuochi di artificio. Ah, fuochi, tornamosene a palazzo, va, prima che se fa buio. Giorno appresso stavamo attraversando Piazza del Popolo e si fermavamo di mirar Pincio. Fu lì che successe il fatto. Da una carrozza accanto a nostra, il sole Rigo incoccia lo sguardo ardito di una bella dama. Dallo sguardo che si scambiano e dalla domanda che mi fa, capisco che ci aveva ragione la pora mamma. Nino, Nino, ma chi è quella bella donna? No, Sor Conti... tornamosene a palazzo che ci aspettano per colazione. Ma com'è che si chiama? Eccellenza, non è pane per i vostri denti. Ma dimmi almeno il suo nome. Non me lo ricordo. Va bene, va bene. Vorrei dire che andrò a chiederglielo di persona. No, fermi, dove vai? Ma che sei scemo? Ma non vedi che lì è pieno di guardie? Quella è donna Paolina Bonaparte. Donna Paolina, la sorella dell'imperatore, Napoleone. Pure la moglie del principe borghese, che è il meglio amico del capo della polizia, quindi è meglio essa annamo. Ma dov'è che vive? Lontano da casa nostra! Amoro, se ne vuole mannà! No, guarda Nino, che io voglio solo parlarle, solo incontrarla, solo questo, te lo giuro. E tu mi darai una mano, vero? Questo era proprio scemo. Allora, Nino, come va quel righetto nostro? Bene, Minè, bene. Egli è vivace, anche troppo. Perché? Avevo combinato già qualche imbroglio? No, ancora no. Ma se può creare problema, lei m'intende, che faccia troppo il grillo in mezzo alle sottane. E qua specie sottana? Sottana ebrete o sottana di... Ecco, bravo Eminenza, sottana di, ma artologata, molto artologata. Ah, vabbè, e se è questione di femmina, una soluzione si può sempre trovare. Nino, quella non si deve occupare di politica, hai capito? Che il Santo Padre è buono e caro, ma i carbonari lo stanno facendo a scipazzi, quella non ci dorme più la notte. E se ne pigliano uno, la ghigliottina non gliela leva nessuno. E capite? Nessuno. E non solo a lui. Ma so spiegato, mo. Quindi va vadenne in pace e araba l'occhio. Insomma, il sorcontino poteva far grilla a corte, no? Ma si faceva troppo il sartapicchio? Ci annavo de mezzo pure io, ci annavo. Cominciorno li ricevimenti per i palazzi nobiliari. Palazzo Chigi a Raspigliassi o de Scalachi e Braschi. E qui non si dormiva più una notte che fosse una. E poraccio il sorcontino si era scelto proprio buono il partito da corteggià. Perché se quello il fratello Napoleone era stato sempre in guerra, questa la sorella, donna Paolina, non si era persa una festa che fosse una manca a sparaglia. E il sorcontino sempre appresso. E per fortuna che era de maggio, perché a me mi toccava sempre aspettarlo nei cortili in mezzo all'altri vetturini, no? Che sai com'è? Una parola tira l'altra. Au, non cominciate a capire com'è che andava la faccenda, eh? Nino. Senta, te devo dire una cosa. Vabbè, senta, invece che faccio, strillo? Ma te via qui, no? Che te cosa? Senti. A me ma sa che il padrone tuo finisce male. No, Arba, non mi chiede niente perché io non so niente. Sì. Quello appressa a quella dura poco. Vabbè, a te che te frega, Arva, meglio no, così finisce la storia. Ha sentito che... Ma che sta... Ha sentito che ha detto? Ma bisogna vedere come finisce, quello ci ha scritto faccia che era passare i guai. Anino, state d'accordo, perché quella uno ne lascia, 100 ne via. Difatti, come fra sti 100? Una bella sera sotto al palazzo di donna Luciana mi vedo sorti fuori donna Paolina che scende le scale tutta trafelata. Quando arriva giù il cocchiere gli apre la carrozza e senza dire né ma partono de botto. Il padrone tuo già si è persa per strada. Ma devo sto zitto, Arba. Nino, scusi eccellenza, non l'avevo vista, dica. Nino, la signora ha il mal di testa. Seguiamola. Ah, pronti. Vabbè, Arba, io te saluto, buona nottata. Sì. Buona nottata a te, se ci riesci. E via giù per via del corso appresso la carrozza di madama. Stavolta me la faccio scappare, c'è lei. Ah, ah! Ma quando arriva Mar Campidoglio, la carrozza sua si ferma, la signora scende e comincia a salire a scale tutta presciolosa. E mondo va! Io manco me fermo, scende pure il conterico e comincia a fare scala 4 a 4. Ah, brutto, lì! E no. Mossi non glielo ho appresso il monsignore zio, ma tira davvero una schioppettata a me. E via, glielo dietro a roda. Ma quando arrivo su in cima, al piazzalone, lì i colombi erano spariti e mondo sonnati. Mi guardo intorno. Ma eravamo solo io e Marco Aurelio col cavallo suo. E una musica che veniva da lontano. Com'era bello qui su, oh. A stora poi non c'ero mai stato. A Marco Aurelio, te bossi. Ma che fai, te godi tutto sto panorama da solo, a me mi dichi niente. Vabbè che sei stato imperatore, ma molto è rimasto solo il cavallo, come a me. Se può dire che siamo colleghi. Intanto la musica, dalla parte che dai fuori, s'alza de tono. E io mi metto a seguirla come fosse un sentiero. E me li ritrovo a un angolo, tutti abbraccicati che si stanno a baciare. Io me fo invisibile e resto lì, a guardare. Mazz, com'era bella lei, oh. Con sti capelli lunghi, tutti arricciolosi. Apparecchiata che era una regina, ma semplice però, è vera. Che t'ho da di bella come sti serci antichi tutti illuminati che stanno qui intorno. Come il profumo dei lipini. Come qua la musica di qua la festa lì giù, che certi signori stanno a improvvisare sotto all'arco di Traiano, ricchi e spensierati. Enrico però tremava come una foglia, s'era fatto trasparente, non rideva più, la guardava e basta, senza di niente. Non rideva più di fronte a tanta immensità. La mattina dopo, quando ritornammo, era più felice di fringuella. Oh. Dai e giù a parlarmi della patria, di Milano, della libertà, di tutto. Ah, la favela non si batteva, eh. Altro che monsignore zio. Ma ho capito perché uno come Ottavio ci ide a cascato dopo aver incontrato gente come questa. Perché quando t'hanno detto che l'omini hanno da essere tutti uguali, ma non c'è papa che tenga che te può far cambiare idea. Però te può far cagà sotto solo di chi in giro. E questo era il compito mio, eccellenza. Eccellenza, finché parliamo fra noi due, parliamo bene, ma non se famo sentire troppo in giro, perché qua stiamo a Roma, no a Parigi, ha capito? E che te pare che era finita? Come no? Cominciorno le passeggiate notturne, fra una scappatella e un'andra, a camminare, dai a camminare sotto al cielo stellato, affermassi a rimirare le statue, come se fossero compagni. No, è che è ripartito un'altra volta. Momento, vengo. Come se fossero compagni d'altri mondi, ma senza gambe, testa, braccia, capito? Ammazzelo quanto cuore. Ecco, arrivo. Come se fossero pronte a scendere dal piedistallo e mettersi a discorre. E che palle, oh. Io con sta storia va a finire che mi vado a dormire quando è finito il giubileo. Beato a te, a Bruto, non capisci un cazzo e sta sempre a scureggià. No, Brutino, lo vedi? E non è il momento, sì, buono. Io sto ragazzetto non capivo più. Prima era tutto sole, caciara. Mo' era tutto silenzio, buio. Parlava che i pietre, che i cantoni. Hanno un'anima? O diceva. Bisogna sapere ascoltare le ombre. E andava a ficcar naso dentro a qualche androne, dato sortiva fuori al gatto incazzato pa' la visita. Se commuoveva pure di fronte ali fuori del Coliseo, alle prime scaglie di luce, in mezzo a quelle frasche de boscaglia zozza che s'arrampicavano. Sta male, diceva. Non ce la farà. Poro Sorerico, oh. Che dell'amore, eh? È vero, eh no? E quella voce, mannaggia, Quella volta che si incantò a guardare l'angelo con lo spadone, quello che si vede sopra il tetto del castello, no? Qua porta, lì su quel ponte. Ma non ha niente a incocciare su quel barbone tutto zozzo che puzzava come un sorcio buttato in mezzo a un sterco di cavallo. Dico, come comincia, guarda. Nino, Nino, che t'avevo detto? Dica, eccellenza, che c'è? Ma chi è quell'uomo? No, è un barbone, che si vede? Io so il cardinal Miguel de Valverde. Un cardinale? No, so crede lui, ma è un poraccio che è ido carcerato al castello. E perché? Quello, tutto arruzzonito com'era, si tira sui piedi e comincia a tirar fuori parole dalla bocca comandamente. Era guapa! Era guapa! E sempre me lo ripeteva, sempre che io non potevo resistere. Non mi importa che tu sia il mio confessore, io te chiedo, io te chiedo. Io voglio fare l'amore con te, sempre, sempre me lo ripeteva, che io non potevo resistere, perché teneva un sentimento nel profondo dei suoi occhi, mentre mi mirava durante la confessione, che io non potevo. Non potevo resistere. Facemmo l'amore io e la nipote del Papa. Fui detenuto, carcerato, torturato. Me cararò in sto castillo in una cella oscura. Perdi todo. Ma una noche, como per incanto, me siento una voce que me llamó. Eminenza. Eminenza. Venite. Venite con me. El Papa no è a Roma. Ci hanno lasciato soli. Eminenza. Eminenza, era la voce della serva della mia amata, mandata da ella para liberarmi. Así che me prende per la mano e mi conduce fuori. Fuera! Libero! Libero! Ma e la mia amata? Ah, non è potuta venire, ma non si preoccupe, perché una noce la vedrà il candelabro acceso sulla testa dell'angelo e la mia padrona verrà con la sua carrozza e voi fuggirete insieme, insieme, insieme, ma non era mi colpa, perché teneva un sentimento nel profondo dei suoi occhi, sei qui, sperandola, perché son sicuro che verrà, perché mi chiede, e perché verrà, verrà, verrà, verrà, e aspetta un altro po'. So 30 anni e ci sta raccontando la stessa storia, oh! Assor con te. Namo, se ne va, che è meglio. Questo dice la stessa cosa da 30 anni. Io preparo la carrozza che... no, sor con te, che almeno... Sor con te, che c'è? E il sor Rigo aveva ascoltato tutto il tempo a bocca aperta. E mo lo sguardo gli si era fatto più profondo, più buio, più... Ne poggia una mano sulla spalla pareggese dall'emozione. E dall'occhio gli sorte fuori una lacrima. Una soltanto, ma pesante come una pietra. Anvedi, oh. Anvedi. Anvedi come assomiglia Ottavio. C'ha lo stesso sguardo suo sputato. Ottavio! Cioè, che sto a dire? Conte Rigo? Venga, venga, venga, va. Si appoggia al braccio. Non si preoccupi. No, ci sto qua io. Piano piano, gli è fo strada. E attento alla merda de cavallo. Qualche giorno appresso davanti a Palazzo Aldobrandini mi vedo sorti fuori donna Paolina con un ufficiale dei dragoni al fianco. Oh, al padrone tuo è giunta l'ora. La signora si è già cambiata la guardaroba. Arva, ma la vuoi piantare? Appresso a loro, me lo colloco pure il conte Rico che mi fa dice Nino, Nino, portami al cimitero. Al campo santo ce l'è. Perché? Donna Paolina mi ha lasciato. Vabbè, mo tornamosene a palazzo, poi domattina ne riparliamo meglio. Ma io lo sapevo, sai? Lo sapevo che sarebbe finita così. È certo, perché voi siete un ragazzo intelligente. Sì, ma volevo essere io per primo ad andarmene, capisci? Vabbè. Vabbè, mo sta a guardar capello. Poi se volete che va a dica tutta, secondo me non vale la pena di perdere sonno dietro a ste donne francesi, eh? Non mi vuole più vedere, sai. Non mi fa neanche avvicinare dalle sue guardie. Ma non può. Non può finire così, Nino, capisci? Perché io le ho scritto una canzone d'amore. E voglio dargliela perché lei sappia quanto l'amo. Guarda, anche a costo di cantargliela sotto la sua finestra. Anche a costo, guarda, di farmi sparare. E giù a piagner pianto più antico del mondo. Mo sarà che son becile, sarà che son ignorante, ma io ogni afo vede un uomo che piagne. Così che gli dico, ah, sua eccellenza, sorelli, che volemo fare? Volemo morire per una faccenda simile? Nella vita ci stanno tante cose importanti da fare. Pure voi ci avete tante cose belle dentro a qua la capoccia. E se si tratta di andare a cantare sta canzone sotto a qua la finestra sua, io la posso andare a cantare pure io, eh? Davvero? Davvero tu faresti questo per me? No. No. Aspetta un momento. Ci stanno pure tante altre soluzioni, eh? Ecco, per esempio, domani comincia la stagione del teatro. Te pare che donna Paolina non se va a vedere uno spettacolo all'Argentina? Oh, noi troviamo un ragazzetto. Gli damo sto foglietto. Quello lo consegna. E tira via. Ma che bella pensata che m'ero fatta, oh. Mannaggia il giorno che me so imparato a parlare. Il teatro, Nino, ma è un'idea straordinaria. Solo che all'uscita sarò io a sbarrare il passo. Mi metterò anche il cappello nero in testa, così capirà veramente chi sono e che è rimasto fedele a suo fratello. Mi avvicinerò, le darò la pergamena, le griderò «Viva la libertà!» e andremo via. Eh no. Perché se famo così, quel cappello rimane direttamente dentro le mani di Mastro Titta, Dio capoccia. Allora tanto vale che se la tagliamo da noi stessi. Altro che libertà! Allora, Nino, che tieni da dirmi? Non ho niente, Mine. Ecco, solo una preghiera. Per domani sera, vostro nipote, tenetevo un po' con voi. Ma perché? Avete combinato qualche impiccio con donna Paolina? Ma che siete informato? Az, informato, sape tutta Roma. È nato poco che il Santo Padre in persona non mi viene a dire quello, tuo nipote deve stare attento, perché quella uno ne lascia e cento ne piglia. E difatti, è per evitare che Sor Contino passasse dai gonne di donna Paolina direttamente agli garzoni di qualche gendarmo secondino, lei m'intende. Santa pace, santa pace. A Bologna vi fate nata insurrezione. A Napoli vogliono fare i liberali, vogliono fare. E quello mio nipote si fa vedere sotto braccio con donna Paolina Bonaparte, la sorella dell'imperatore Napoleone. È perché si crede di stare in vacanza, capito? Intanto in Vaticano i fucili li tengono puntati contro a me. E se capisci perché... Ma che mi metta a parlare di politica con te, Nino? Bravo. Hai fatto buono avvertirmi. Me ne occuperò io. Ma tu... non gli devi far fare pazzie. E capito? Mi raccomanna a te. Sì, sì. Tanto, Emine, famo sempre tutto questo per bene del Sor Contino, no? Beh, io allora bacerei l'anello. A sera presto stavo ancora a tavola e mi vedo arrivare Sor Contino tutto trafelato che mi fa dice Nino, dai, lo spettacolo sta per terminare. Dobbiamo andare, dobbiamo far presto. Dai, Nino. No, ma dico, è vostro zio? È rimasto in casa? Dai, Nino, dobbiamo andare. No, dico, ma andate a rimanere con lui, no? E l'ho lasciato in casa e son venuto via. Dai, Nino. No, un momento, che siccome che stavo a Magnanza, poteva fare un'altra sera, no? No, Nino, dobbiamo agire questa sera perché i miei amici mi hanno richiamato da Milano e domattina dovrò ripartire. Dai, Nino, che dobbiamo... No, un momento che... Dai, Nino, che dobbiamo far presto. Un momento che... Dai, Nino, su! Un momento, oh! E io c'ho un brutto presentimento, ma chi vuoi fa? No, Nino, non ti devi preoccupare, andrà tutto bene e poi domattina ripartirò. Ma questo cappello rimarrà a te. Ho saputo, sai, ho saputo di tuo fratello. Caro amico mio, domattina te lo regalo. Saranno pure belli quei grilli che stanno lì dentro, ma a me quel cappello mi pareva una condanna. Io lo dicevo sempre a mio fratello, ma quello niente, tosto, voglio essere libero. Dentro le mura mi sento un servo, ma fuori porta so italiano. E che? E che? Che è sta patria? Che è sta libertà? Che mi serve? Che mi può dare? Non è mica come un amico, no, che devi trattare da uomo perché te può dare una mano. Ma non è manco come un monsignore che devi trattare con infinteria perché te può tornare da conto. Se c'ho freddo mi metto la mantella, se voglio camminare mi metto le ciabatte. Allora che è sta patria? Che è sta libertà? Che mi serve? Che mi può dare? Oh, Anino, a noi ci hanno detto che è tutta colpa dei tiranni e che per questo dobbiamo battagliare duro. Comunque, sempre meglio andare a combattere da soldato che morire di fame di fronte a qualche convento. Tu che ne dici? Che ne so, ta? E ci avrai ragione te, che tota di? Ci avrà ragione il proverbio. Chi c'ha l'aureola, chi alza la voce, chi non conta niente e porta la croce. A bruto, amico mio, che famo? Se famo affari propri. E allora via, ah bruto, via, fino all'arca argentina volando sopra i buche senza manca aver tempo di farsi venire il crepacore. Quando arriviamo lì, le note del barbiere di Siviglia si sentono da fuori e cominciano a partire applausi. Bruto, lì! Nino, tu prepara i cavalli, io farò in un attimo. Ma io allungo il collo e vedo che le guardie che controllano la piazza già smicciano verso di noi. No, a Sor Conti, e qui dobbiamo fare un'altra sera, è pieno di guardie. No, Nino, dobbiamo agire questa sera. Io farò in un attimo, poi mi nasconderò tra la folla. Fermete. Dammi sto foglietto. Ce vuoi io, ce vado io, tanto a me non mi conoscono, ambasciatore non porta bene. State zitto, dighi niente, capito? Dighi niente, fammi. E mannaggia il giorno che son nato. Dal palazzo illuminato cominciano a sortir fuori i preti, i nobili, le femmine ingioiellate. Ecco donna Paolina con l'ufficiale dei dragoni al fianco. Io me fo coraggio, scendo dalla carrozza, passo in mezzo all'altri vetturini che hanno capito antifona e me guardano zittiti. Ecco donna Paolina chiama la carrozza, le guardie me tengono sott'occhio. Io me fo coraggio, vado avanti, moglie sto praticamente di fronte, fo quasi per fermarla, ma da dietro me supera il sorcontino col cappello in mano che comincia a strillare: Paolina, mia signora, un saluto! L'ufficiale che gli sta al fianco fa per fermarlo, ma quello puppia gli sputa in faccia. Fu un attimo. Quattro gendarmi, come se fossero dati appuntamento, lo bloccano, ma quello continua a strillare: Paolina, mia signora! Viva la libertà! Viva Napoleone! Viva l'Italia! Paolina, amore mio! Con cazzotto gli dai enorfiato. Poi lo sdrucinano sopra un carrozzone che quella la signora non si è manca accorta di niente. E poi un gendarme mi incoccia pure a me, che gli stavo da dietro. Tu chi sei, che vuoi, che stavi a fa? Chi io? A brigadier? Niente, che sta a fa? Sta a guardare la gente. Ma come conosci quello che stava dietro a te? Chi? Io? A quel ma? Ma chi lo conosce? Io non c'entro niente, non ho fatto niente. Poi per fortuna, due compari lo richiamano e vanno via col prigioniere. Mo, io... che già c'avevo il cuore in gola, pia, e mi metta a inseguirli mentre che imboccano giubbonari, campo dei fiori, panico, il ponte, e si fermano solo davanti al Castel Sant'Angelo, mentre che aspettano che gli aprano il portone. E sul contino si slunga davanti alla finestrella della carrozza, così che io fo tempo a vedere com'è che l'hanno combinato. Tutto ferito e mal ridotto. Poi quello guarda verso il buio, come se mi avesse visto, e mi butta uno sguardo spaventato. E poi con carcio lo ricacciano dentro. Ma come? No. Dio. Ma io che potevo fare? Che potevo fare? Lascia me. Rimango lì su quel ponte senza un pensiero, senza un perché. Solo. Manca il barbone, c'era più. Chi lo sa, forse ha visto il candelabro acceso sulla testa dell'angelo, finalmente in pace all'anima sua. Abbruto, tornamosene all'arca argentina, ma quando arriviamo lì non c'era più nessuno. C'era solo il cappello del conte abbandonato lì per terra. Lo ricorgo e me ne ritorno a palazzo, dove non era finita. No, perché m'aspetta tutto un cazzato per monsignore. Mio nipote, quel disgraziato, ha osato legare la mia persona a una sedia e chiudermi nella stanza da letto. Ma tu, traditore, tu che mi era tanto raccomandata, tu l'ha accompagnata a fare quello scandalo. Quando me l'hanno detto non ci potevo pensare, ma allora eravate d'accordo. Il debito di mio nipote con Santa Romana Chiesa si compie di fronte al braccio secolare. E io non ci posso fare più niente. Ma tu, Nino, tu hai chiuso qua dentro. E ringrazi a tua madre, okay? Se non ti faccio arrestare con mano sovversiva. Quando sei stata fissa, Nino? Quanto si state fesse. E vabbè, oh, e pensare che a me all'inizio il sorcontino mi stava pure antipatico. E ci avrà ragione il proverbio, che t'ho da dire. Chi c'ha l'aureola, gli alza la voce, chi non conta niente e porta la croce. Ci ho perso tutto, tutto. L'onore, il nome, il lavoro. Chissà Bruto che fine ha fatto. E per che cosa? Per che cosa? Per sto cappello. E per tutti i grilli strani che stanno qui dentro. Venghino, signori, venghino, se avete gradito lo spettacolo, se vi è piaciuta la storia, vero? Un obolo, un pensiero a vostro buon cuore, un che e qualche cosa puro per la musica, grazie. E qualche altra cosa però mi è rimasta azzeccata. Sarà che son becille, sarà che son ignorante, ma io non me la so sentita di buttare sta carta vecchia. C'è rimasta qualcosa dentro a sto foglietto, qualcosa dentro a ste righe strane, dentro a tutte ste romanticatezze, qualche cosa che non m'ha voluto mai lasciare. Pace nel mio cuore, pace nel mio paese, pace fra la gente, pace infine alle mie ansie, agli ideali, alle passioni, alla mia nebbia, nel sorriso dolce di una donna, contro il morire assurdo degli eroi, nel canto allegro dei suoi occhi, nel ritmo lento dei suoi passi, io giustifico e perdono tutta la vita mascalzona. Ritorno allora al mio paese senza più sogni di conquiste o morte, ma pieno ormai di quiete antica, di sensi caldi e voluttuosi, come in volo. Addio Paolina, parto, vado via, e pace ancora sul mio amore che sempre, anche in segreto, nutrirò per te. Sì, lo so che stai appena a me, lo so, l'hai sempre detto, a farsela affari propri se campa 100 anni, ma mo io te chiedo, ma dimmi un po', l'affari propri, quali sono?